Letture di Radio 24. La Camera dei Deputati, a conti fatti, ci costa 1,5 miliardi di euro all'anno. Questo è quanto emerge dal bilancio consuntivo della Camera pubblicato il 2 maggio scorso. Ma sono tutti costi essenziali per la democrazia. Cara democrazia, lo scorso 2 maggio è stato pubblicato il bilancio e il conto consuntivo della Camera dei Deputati. Quanto è costato nel 2010 mantenere Palazzo Montecitorio, le spese di amministrazione, gli stipendi dei deputati e i parlamentari in pensione? Più di 1,5 miliardi di euro. Per la precisione, 1,525 milioni. Una cifra enorme, che corrisponde a un esborso di 30,34 euro per ogni elettore. Ma la casta non aveva promesso di tagliare le sue spese? I tre deputati questori, Francesco Colucci, Antonio Mazzocchi e Gabriele Albonetti, scrivono nella relazione che accompagna il conto consuntivo 2010 che la categoria 1, deputati, su una previsione di 167 milioni di euro, registra impegni e pagamenti per 164,2 milioni di euro, con conseguente formazione di economie per 2,8 milioni di euro, quasi integralmente riconducibili al capitolo 1, indennità parlamentare. In pratica, i deputati questori dicono che le spese per i parlamentari sono calate di quasi 3 milioni. Positivo lo sforzo per tagliare le spese. Purtroppo è solo una goccia in un oceano. In media, i nostri parlamentari, tra indennità e rimborsi spese, continuano a guadagnare all'anno circa 260.000 euro a testa. E gli italiani sono chiamati anche a mantenere i parlamentari in pensione. Tra assegni vitalizi diretti, assegni vitalizi di reversibilità, rimborsi spese e rimborsi di viaggio, ai deputati cessati dal mandato ogni anno arrivano 134 milioni di euro. La spesa per stipendi, pensioni e rimborsi dei deputati è solo un piccolo onere in confronto agli altri capitoli di spesa. Ci sono le spese per la locazione di immobili, 34,4 milioni di euro, quelle per le manutenzioni ordinarie, fabbricati, ascensori, impianti antincendio, condizionamento, arredi, mezzi elettronici, software, eccetera, che costano 12,6 milioni all'anno. I servizi di pulizia, di smaltimento rifiuti e di lavanderia costano annualmente più di 7 milioni, mentre le spese telefoniche, cellulari e telefoni fissi superano il milione di euro. Poi c'è il capitolo di spesa per l'acquisto di beni e materiali di consumo, circa 3 milioni di euro. Categoria che tra le varie voci include anche gli alimenti, 630.000 euro, il vestiario, 600.000, prodotti igienici, 50.000 e i prodotti farmaceutici, 80.000 euro. Invece le spese di trasporto, noleggio auto, treni, aerei, pedaggi autostradali, ammontano a 10 milioni di euro. Non mancano le spese per le opere d'arte, 60.000 euro. Il patrimonio artistico della Camera è enorme. Palazzo Montecitorio ospita 1.084 dipinti, 578 di proprietà della Camera, 506 di terzi, 85 busti, 106 sculture, 98 arazzi, 96 reperti archeologici e 2.989 disegni, stampe, incisioni, litografie, acqueforti e acquarelli. Tutte spese necessarie per la nostra democrazia e che sono destinate a crescere nel prossimo triennio. Nel 2011 si prevede di spendere 167 milioni di euro per l'indennità e i rimborsi dei deputati, cifra che nel 2013 crescerà di altri 5 milioni. Nel periodo 2011-2013 si spenderanno anche 6 milioni di euro per opere di sicurezza antincendio, ma anche 6 milioni e mezzo per il rifacimento degli impianti di condizionamento e 605.000 euro per il rinnovamento ascensori. All'area applicativa della pubblicità dei lavori parlamentari, delle pubblicazioni, della comunicazione con il pubblico, dei siti web, delle applicazioni speciali, arriveranno 7 milioni e mezzo. Stessa somma che sarà spesa per l'area postazioni informatiche, mentre per l'area impianti di voto saranno stanziati 1,8 milioni di euro. Povera casta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Deputati e spese. La Camera ci costa 1,5 miliardi all'anno. Di Gianmaria Pica, da Il Riformista di mercoledì 4 maggio. Le cose vanno così. Quante volte lo abbiamo sentito dire per strada, in ufficio o in palestra? E se le cose vanno così, allora perché non sfruttare una bella raccomandazione quando possibile? E proprio quella raccomandazione, per tanti, è la maggior fonte di sfiducia. Il termine raccomandazione in Italia evoca una pratica familistica o clientelare, a seconda dei rapporti che intercorrono tra raccomandante e raccomandato. Una pratica, cioè, che va contro ogni principio, vuoi di merito, vuoi di diritto, per far valere al contrario in modo estremo un criterio particolaristico. Lo scambio di favori, il badare agli interessi di chi ci sta a cuore, ignorando i diritti degli altri. È un atteggiamento esito insieme di arroganza e di sfiducia, perché si basa sull'uso del potere, anche piccolo, per aggirare le norme, le graduatorie, le liste di attesa. Una mia collega anni fa spiegò che il vero potere di un professore universitario si misura dalla sua capacità di mettere in cattedra qualcuno che non ne avrebbe i titoli. Ma l'affidarsi alla raccomandazione è anche insieme l'esito e la causa di una sfiducia generalizzata nella certezza delle norme e dei diritti. Il fatto che molte volte la raccomandazione non venga presa in considerazione o non sia sufficientemente efficace non ne indebolisce l'uso. Piuttosto, sembra perversamente rafforzarlo, spingendo alla ricerca di raccomandanti più potenti. La competizione si sposta dal terreno dei diritti e del merito a quello di chi può contare su una rete di raccomandanti efficaci, con la conseguenza non solo di produrre iniquità e inefficienze, ma di creare una popolazione di benefattori e beneficiati. Proprio l'abuso di potere insito nell'uso della raccomandazione, coniugato con la sfiducia generalizzata che crea, spiega perché siano così scarse nel nostro paese le ribellioni, anche quando la violazione delle norme è sotto gli occhi di tutti e l'abuso di potere plateale. Che si tratti di un concorso universitario truccato o di una legge ad personam voluta da chi è in grado di autoraccomandarsi. Al massimo ci si lamenta perché qualcuno ci è passato davanti o è riuscito ad aggirare le norme, ma si dà per scontato che le cose vadano così, al punto che non si crede mai davvero che qualcuno ce l'abbia fatta per meriti propri o avendo seguito le regole, con un effetto di squalificazione reciproca generalizzata. Del resto, chi osa denunciare una procedura truccata dall'uso della raccomandazione rischia di rimetterci le penne perché disturba un clima di omertà diffusa. Proprio l'uso particolaristico della raccomandazione per aggirare norme e procedure standardizzate, criteri di merito e persino per fare valere diritti, rischia di far considerare ogni tipo di raccomandazione come un abuso. E invece non è così. La raccomandazione nella forma di referenze è uno strumento indispensabile, nel senso che è richiesto formalmente, e non ne basta una sola, per concorrere a posizioni in alcune comunità professionali o per accedere ad alcune risorse, una borsa di studio ad esempio, soprattutto all'estero. Con essa, chi la fa garantisce, assumendosene la responsabilità, della reputazione della persona e delle sue qualità rispetto alla posizione e/o al buon uso delle risorse cui aspira. Perciò, deve godere egli e la stessa di una reputazione nel settore di interesse. In questi contesti, una raccomandazione superficiale o non congruente o impropria danneggia tanto chi la fa quanto chi ne è oggetto. Si perde facilmente la propria reputazione se non si fanno delle raccomandazioni serie e argomentate. Certo, fare una raccomandazione sulla base delle proprie competenze e di quelle di chi si raccomanda richiede più fatica che non raccomandare sulla base del proprio piccolo o grande potere. Perché ciò che si deve dimostrare non è appunto l'evidenza del potere. È un atto insieme professionale e di civismo responsabile, laddove la raccomandazione all'italiana è la manifestazione della irresponsabilità e dell'assenza di civismo. Così come la necessità di avere una raccomandazione per ottenere un servizio che dovrebbe essere erogato senza interventi esterni o per ottenere una prestazione in tempi ragionevoli e prima che sia troppo tardi, è il segnale di una società malata e malfunzionante. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Quell'abuso di potere che genera sfiducia» di Chiara Saraceno dalla Repubblica di martedì 3 maggio.